La legge promuove i distretti del biologico come, diciamo, comunità che mettono insieme agricoltori, allevatori, trasformatori, rivenditori di prodotti biologici, ovvero che vengono prodotti sui campi senza uso di pesticidi, fertilizzanti e altre sostanze di sintesi chimica, e negli allevamenti, quindi dando foraggio che non è trattato chimicamente, e infine nella tutta la catena poi di ulteriore produzione vengono elaborati senza, ripeto, l'intrusione di sostanze chimiche. Quindi sono, fin dalla loro nascita sui campi fino alla nostra tavola, sono sani per l'ambiente, sono sani per la nostra salute. Quindi l'introduzione, appunto, dei distretti sarebbe una forma, oltre che di riconoscimento, anche di tutela? Distretto, che funzione ha? Ha quella di mettere insieme queste realtà diverse, alle quali possono aderire anche comuni, scuole, quindi può portare anche alla diffusione del cibo bio nelle mense scolastiche. Quindi è una comunità integrata di vari soggetti che insieme rappresentano un volano per la diffusione di questi metodi di produzione agricola e poi, diciamo, di successiva trasformazione, che rispettano la biodiversità, rispettano la fertilità dei suoli e non inquinano anche le acque di falda, perché appunto non facendo uso di sostanze chimiche è chiaro che tutto il ciclo produttivo è rispettoso dell'ambiente, rispettoso, ripeto, della biodiversità. Infatti c'è un passaggio anche a favore dell'apicoltura, perché noi sappiamo che senza insetti impollinatori sarebbe difficile appunto produrre la frutta in particolar modo, e purtroppo invece gli insetti impollinatori, proprio a causa del diffondersi di impiego di sostanze chimiche, spariscono. L'altra cosa di cui va tenuto conto è che il distretto bio crea una sinergia anche dal punto di vista culturale, cioè quindi del far conoscere, e poi l'apporto di enti di ricerca è invece un aiuto per approfondire queste tecniche agronomiche che, facendo appunto a meno dell'uso di sostanze chimiche, sono molto sofisticate. Quindi non bisogna pensare all'agricoltura biologica come un'agricoltura povera, è un'agricoltura invece agronomicamente molto ricca. La legge prevede anche delle risorse economiche. Sì, le risorse economiche sono 50.000 euro per il 2023, considerato appunto che non ci sarà grandissimo tempo per fare bandi e per aderire ai bandi, visto che adesso in base a questa legge i distretti del biologico in formazione devono essere riconosciuti dalla regione. Quindi 50.000 euro nel 2023, 100.000 nel 2024 e altri 100.000 nel 2025. La legge poi prevede che si possa far ricorso anche a risorse europee, e voglio anche aggiungere un'anticipazione a Radio Fujiko: l'assessore Mammi, a fine dell'iter di approvazione, mi ha detto privatamente che sul 2024 ha delle risorse aggiuntive da mettere a disposizione. Tu prima parlavi di cultura a livello della nostra regione, la cultura del biologico a che punto è? Ma io direi che da noi c'è abbastanza consapevolezza se parliamo di cultura. Certo, nella grande distribuzione un affaccio dei prodotti biologici c'è, sia di quelli freschi che di quelli, diciamo, conservati, secchi, penso, non so, alla pasta, al pane, gli infusi, le uova biologiche hanno un successo enorme nella nostra regione. Questo, quindi, forse anche la presenza di Sana, la fiera di Bologna, direi che c'è abbastanza consapevolezza. Dal punto di vista della coltura pure non siamo messi male, perché siamo al 19% della superficie coltivata totale, quindi 19% che segue il metodo biologico. Questo ci mette al sesto posto in Italia, mentre siamo al quinto per numero di aziende bio, che sono 7.333. Quindi c'è stato un incremento, questi sono dati, tutti i dati 2022, rispetto al 2021 c'è stato stato un incremento di oltre il 5% di nuove aziende biologiche. Sicuramente l'idea del distretto, proprio perché crea sinergie, sarà un volano molto interessante per coinvolgere i comuni, per coinvolgere i territori. La legge servirà per finanziare non solo studi e ricerche, ma anche diffusione di materiale che raccontino anche le tipicità di questi territori che si associano. Prevede anche supporti alle piccole aziende, quelle che fanno fatica a certificarsi, perché la certificazione ha degli oneri di tipo burocratico e anche economico, e poi faciliterà anche, che so, i mercatini, quei punti di incontro diretti tra produttore e consumatore.